La sentenza arriva a fare chiarezza definitivamente su quella che noi abbiamo definito fin dall'inizio una montatura giudiziaria ordita contro Aldo Milani, ma contro tutto il Sicobas e in generale le lotte sindacali, nel senso che il teorema che stava alla base di queste delle accuse di estorsione ai danni di Milani, al di là della scenetta organizzata con il passaggio della bustarella al consulente Piccinini, l'obiettivo era quello di trasformare le vertenze sindacali, cioè la richiesta di pagamenti a favore dei lavoratori, come un'estorsione, come l'ha definita il magistrato, un'estorsione a fini sociali, e quindi l'intento di questo processo fin dall'inizio è stato questo. Facendo una specie di cronistoria, diciamo che era in corso nel 2016-2017 una vertenza all'interno della Alcar 1, società di macellazione carni del gruppo della famiglia Levoni, dove c'erano delle cooperative, ci sono tuttora delle cooperative che gestiscono la manodopera con dei meccanismi ben noti, specialmente nel settore carni, ma non solo, di società che nascono, spariscono, portando via contributi, PSR, con ammanchi in busta paga, pagamenti in grigio, e quindi era in corso una vertenza dura con scioperi e picchetti ai cancelli per ottenere la restituzione del mal tolto. In questa situazione viene organizzato questo tranello per cui Aldo Milani, nel corso della trattativa, a uno degli incontri gli si siede di fianco questo soggetto, questo Piccinini, che è un consulente della società Levoni, e durante la trattativa, mentre stanno parlando, viene allungato da Levoni a Piccinini una busta contenente dei soldi, 5.000 euro, che dovevano essere un anticipo su questa supposta somma chiesta per far cessare gli scioperi, questo secondo l'accusa che è stata fatta. Da lì è seguito l'arresto sia di Piccinini che di Aldo Milani, e andando avanti dall'esame di 4.500 pagine di intercettazioni è venuto fuori tutto quello che c'era stato, è venuto fuori il ruolo della questura, per cui le intercettazioni per cui il dirigente della questura Barbieri esulta insieme a Lorenzo Levoni dicendo: abbiamo fatto bingo, siamo riusciti ad arrestare questo è come arrestare Luciano Lama ai tempi d'oro della CGIL, ce l'abbiamo fatta, adesso abbiamo distrutto i Cobas, e via di questo passo. Si ricostruisce anche tutto il ruolo di Piccinini come faccendiere, consulente all'interno di questo mondo torbido delle cooperative, delle imprese, del tessuto economico modenese. Si arriva quindi oggi alla sentenza di assoluzione, finalmente, che chiude tutta questa vicenda giudiziaria e che mostra chiaramente che quello che dicevamo fin dall'inizio è che era una montatura, è stato dimostrato anche dal tribunale. Ecco, a questo proposito, per esempio, il 9 febbraio scorso voi avevate organizzato una grossa mobilitazione contro appunto un sistema di repressione sistematico che denunciavate a Modena, prendendo ad esempio anche il caso di Talpizza, che è stata una delle vertenze più infuocate, diciamo, degli ultimi mesi sul territorio modenese. In particolare, partiamo diciamo dagli ultimi fatti di cronaca legati a Italpizza. Il 9 maggio, quindi pochi giorni fa, un delegato Sicobas a Italpizza è stato vittima diciamo di un attentato, perché gli è stato dato fuoco alla macchina, fortunatamente un attentato che non ha avuto conseguenze sulle vite di nessuno, e lo stesso giorno venivano notificate oltre 30 denunce ai lavoratori e alle lavoratrici di Italpizza iscritte al Sicobas, e voi dicevate particolarmente gravi quelle nei confronti dei delegati che si sono più impegnati. Sì, allora, innanzitutto l'avvertenza Italpizza è importante non solo per il territorio modenese, ma è un'avvertenza simbolo, e neanche solo simbolica, ma anche pratica, nel senso che la posta in gioco è sia l'agibilità sindacale, e quindi la possibilità di tutti i lavoratori di poter essere rappresentati dal sindacato che vogliono, senza interferenze dell'azienda, e dall'altra parte anche dell'eliminazione del contratto di pulizie multiservizi che il governo Renzi ha tentato di nei loro piani era quello di diventare la base contrattuale per tutti gli altri. Se pensiamo che ad esempio le biblioteche di Modena o di Bologna, i bibliotecari, quelli sono quelli assunti diretti, che sono assunti come bibliotecari, mentre gli altri hanno un contratto di pulizie multiservizi, quindi se cade Italpizza cade quel contratto, tutti potranno richiedere il contratto giusto, e questo darà un colpo terribile al sistema cooperativo, Confindustria e a tutte le forze politiche che lo sostengono. All'interno di questo clima, di questo questa avvertenza, cosa succede? Viene in questi giorni, viene chiamato un tavolo al Ministero del Lavoro a Roma per risolvere la situazione che a Modena non si poteva sbloccare, perché come cantiamo spesso lì davanti, a Modena la legge mangia la pizza, nel senso che qui non era stato possibile trovare degli interlocutori a livello istituzionale disposti a risolvere l'avvertenza. A distanza di poche ore da questa convocazione al Ministero vengono offerte somme in denaro a tutti gli iscritti al sindacato, chiedendo di andarsene, dicendo ve ne dovete andare da qua, noi o prendete i soldi oppure vedrete che sarà molto peggio, e vengono contattati tutti così. Su più di 100-110 iscritti, 9 persone hanno in effetti accettato queste somme che gli sono state date con una conciliazione da parte della UIL. La notte stessa va a fuoco la macchina del nostro delegato, tra l'altro hanno tentato di far saltare in aria la macchina incendiandola dalla parte del serbatoio, per fortuna questo non è successo perché la macchina era veramente a 1,5-2 metri dalla porta di casa, all'interno c'era la moglie del nostro delegato con incinta al 9° mese, col parto previsto per questa settimana, quindi l'intento proprio anche veramente infame e disgustoso di colpire una famiglia che sta allargando in questo momento veramente lascia senza parole. Contemporaneamente l'attacco viene sia da questa attraverso l'intimidazione mafiosa, sia con una pioggia di denunce che guarda caso colpiscono i delegati sindacali tutti con delle accuse maggiori rispetto agli altri, quindi con delle accuse di resistenza che ovviamente cadranno una volta arrivate in tribunale, però servono per fiaccare il morale, cosa che non è successa. Noi mercoledì abbiamo questo incontro in cui chiederemo al Ministero di farsi garante della possibilità nella provincia di Modena di poter svolgere un lavoro sindacale senza che essere vittime di montature giudiziarie, piuttosto che di attentati incendiari, piuttosto che di denunce inventate. Questo sarà quello che chiederemo. Ecco, a proposito di questo tavolo, diciamo di tavolo, al Ministero se n'era già tenuto uno e in seguito, diciamo, i primi scioperi di Italpizza, poi alle ispezioni che c'erano state, che avevano effettivamente comprovato tutto quello che voi avevate denunciato, ti chiederei a questo tavolo se ci si arriva con qualche cambiamento proprio a livello di condizioni di lavoro all'interno di Italpizza. Ci eravamo risentiti poi verso fine gennaio, mi pare, quando erano state effettivamente reintegrate le lavoratrici licenziate inizialmente, però era stata messa in atto, diciamo, una punizione proprio nei loro confronti. Sì, allora, le condizioni di lavoro sono cambiate, gli scioperi servono, la lotta serve sempre, e le condizioni di lavoro rispetto a prima del nostro arrivo sono cambiate in vari sensi. La domenica non si lavora più, il sabato si lavora solo chi vuole, non ci sono più i turni da 12, 14, 15 ore filate senza pause, hanno tolto i tornelli marcatempo per i bagni, ci sono quindi state una serie di modifiche positive, in particolare per gli iscritti a Sicoba, nel senso, come spesso accade, l'azienda tratta in maniera più regolare i nostri iscritti, così come vengono affissi adesso turni settimanalmente, mentre prima erano comunicati mezz'ora, un'ora prima con un messaggio, quindi una serie di cambiamenti ci sono stati, ma appunto sono dei cambiamenti che durano nel momento in cui cade l'attenzione, in cui si dovesse perdere la lotta, tutte queste cose ritorneranno esattamente come erano prima e molto peggio. Arriveremo a questo tavolo dove sono convocati tutti i Italpizza, le cooperative, CGL, CISL, UIL, Confindustria, ovviamente il Sicobas, e ci saranno i consulenti del Ministero del Lavoro e del Ministero dello Sviluppo Economico, la Prefettura di Modena e l'Ispettorato del Lavoro di Modena. Quindi dovrebbe essere la sede per poter avere un confronto complessivo su tutta la vicenda. Vedremo come andrà, speriamo bene. Perfetto, un'ultima cosa che ti chiedo è se a questo tavolo ci si arriva con lo sciopero, diciamo, ancora in piedi oppure no, visto che fino a pochi giorni fa continuava, appunto, era ripreso di nuovo lo sciopero davanti ai cancelli di Italpizza. Allora, lo stato di agitazione resta comunque sempre aperto. Noi negli ultimi 2 mesi stiamo procedendo a una serie continua di scioperi a sorpresa, che è la modalità migliore, quella più incisiva operativa in questa fase. Lo stato di agitazione resta aperto, è chiaro che questa è una lotta che andrà avanti, che non si chiuderà mercoledì in ogni caso, perché comunque abbiamo già visto che anche nel caso si arrivasse a degli accordi, gli accordi ad esempio firmati in prefettura non sono stati rispettati le volte scorse, per cui da lì sono nati nuovi scioperi, quindi nuove trattative, nuovi confronti. Quindi la lotta sarà ancora lunga, chiaramente è necessario avere il supporto e la solidarietà più ampia possibile, perché siamo, come è evidente, sotto un attacco da un lato in stile mafioso e dall'altro da parte degli organi repressivi, e quindi è necessario essere i più uniti possibile anche con tutte le realtà del territorio, della regione, per fare fronte a questa situazione e vincere l'avvertenza, che io sono abbastanza ottimista, penso che la vinceremo, non ho molti dubbi al riguardo.